It's beginning to look a lot like Christmas. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Venerdì 10 dicembre, benvenuti di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro Eduradio e TV, il programma che fa da ponte tra carcere e città e che va in onda tutti i giorni, un'ora al giorno, su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. E vi faccio anche gli auguri, perché oggi, auguri estesi a tutti voi e tutte voi che ci ascoltate, oggi è la Giornata Internazionale dei Diritti Umani. E con l'augurio do il benvenuto, perché è qui con me anche ad Antonella Cortese. Ciao Antonella. Ciao, buongiorno a tutte e a tutti. Oggi Antonella hai un compito, perché è il 10 dicembre e bisogna aprire una casella. Sì, oggi apriamo una casella molto carina, davvero fatta col cuore. C'è un messaggio video di Federico Mollo che in romanesco manda il suo saluto e il suo augurio a tutti i detenuti, perché anche lui è stato detenuto per 10 anni a Rebibbia. Grazie Federico, sei stato veramente incantevole, ti ascoltiamo volentieri. Cari amici, cari fratelli, so che vuol dire a star dentro qui i bordelli, non passati 10 lì dentro di Natale, e so che possono essere pure fatali, ma se ci avete un cuore come il mio, sapete pure che finisce, alla vita niente dite addio. La galera è di passaggio, forza, coraggio. A tutti vi auguro un buon 2022 e ricordatevi che fuori c'è chi ve pensa, non so tutti mica come il bue. Bella regà. E guarda, io vorrei rimanere nelle terre di Federico con la notizia che sto per darvi, perché parlando di diritti umani, un diritto tra i diritti è quello allo sport. E quindi a Civitavecchia, in provincia di Roma, il CONI ricomincia da lo sport nelle carceri. Lo leggo da Giovanni Pimpinelli su tcrgiornale.it, perché chiaramente dopo lo stop causato dalla pandemia bisogna darsi da fare, bisogna che lo sport rientri negli istituti penitenziari. E quindi il Comitato Regionale Lazio del CONI ha ripreso le attività negli istituti di pena grazie al progetto Lo Sport Entra Nelle Carceri, che fa parte del progetto CONI Regione Compagni di Sport. Caterina, si parla di sport in generale, ma con quale sport si inizierà? Guarda, sorprendentemente si inizia per questa edizione dal settore femminile del carcere con lo yoga, perché questa disciplina è legata proprio alla mission del progetto, in quanto da uno studio effettuato, ma ce ne sono diversi in questi anni emersi, in termini di salute psicofisica, lo sport in carcere serve a combattere depressione, alienazione, claustrofobia, tensione, ma anche aggressività e disturbi psicosomatici della personalità, ma anche ad aumentare l'autostima. Ed è per questo motivo che la scelta è ricaduta sullo yoga, che è un'attività specifica che raduna in sé tutte queste caratteristiche. Noi lo sappiamo perché ospitiamo una bellissima rubrica condotta appunto da Franco Bonisoli e da Laura Russo, che si chiama Yoga Ratna, un percorso di libertà. Ed effettivamente è molto importante praticare lo yoga negli ambienti ristretti. È molto importante, tanto che da sempre lo yoga è un ottimo strumento di rieducazione fisica e mentale, in grado di migliorare non solo l'umore, ma anche di ridurre la propensione a atteggiamenti aggressivi, antisociali nell'istituto e a favorire anche la socializzazione, e ha già funzionato anche in passato e in recenti esperienze. Poi altri progetti sono pronti a partire e tutto questo non fa che dimostrare, ecco, la propensione per lo sport della città di Civitavecchia. Ma ho un'altra notizia, sempre che parla di diritto allo sport. Siamo a Ferrara, quindi Regione Emilia Romagna, detenuti insieme verso la meta col progetto Rugby. E lo leggo da estense.com, da Davide Soattin, perché a coordinare la nuova iniziativa Rugby a Ferrara altri non è che, già lo conoscete voi all'interno del carcere di Bologna, Stefano Cavallini, ex assessore del comune di Ferrara, che nel 2014, dopo aver terminato la propria importante esperienza di presidente di sezione tra le fila del CUS Ferrara, insieme ad altri colleghi ha deciso di dare vita a Bologna al Giallo Dozza Bologna Rugby. E quindi adesso ha rilanciato l'iniziativa, ha deciso di fare la stessa cosa a Ferrara, formando già un team di una trentina di componenti che hanno firmato un codice etico per entrarvi. E questo è molto bello perché, come molti di voi dal carcere della Dozza mi raccontano, il rugby è uno sport che aiuta le persone ristrette nel processo di recupero e di reintegro nella società attraverso il rispetto delle regole e della disciplina, ma anche tramite la costruzione di legami sociali e affettivi che solo lo sport è capace di dare. E questo è un grande obiettivo, ma quando nasce il progetto, Caterina? Guarda, è nato a inizio di settembre di quest'anno nel carcere di Via dell'Arginone di Ferrara, grazie all'impegno di un team composto da una decina di volontari, tra allenatori, ex arbitri, giocatori e anche al sostegno economico di due sponsor molto importanti come Emil Banca e CMSRL. Oggi i componenti della squadra sono circa 30, si allenano 2 volte alla settimana sul campo, mentre il venerdì pomeriggio assistono a lezioni e riunioni tecniche nella sala di teatro. Per fare come a Bologna, ha rivelato Cavallini, è ancora molto presto perché il progetto è appena nato e mancano le strutture, il campo ha le condizioni necessarie per essere omologato, anche se mancano alcune cose ancora, ci servono tutto un insieme di autorizzazione, soldi, ma lo faremo e quindi noi gli auguriamo di farcela e di portare anche lì la bellezza del rugby. Restiamo con la musica, continuiamo con la Try Me di James Brown, sempre canzoni soul e ci rivediamo tra pochissimo sempre su Liberi Dentro. Rieccovi, bentornati dopo la pausa musicale. Riprendiamo il nostro venerdì, che è un venerdì animalesco oramai, lo sapete, chi ci segue da diverso tempo, è bello parlare di animali ed è bello parlare delle caratteristiche etiche degli animali, perché ne hanno, vero Antonella? E certo che ne hanno, Caterina, ne stiamo parlando ormai da qualche settimana e infatti oggi continuiamo a parlare dell'altruismo animale, perché il venerdì scorso abbiamo parlato di alcuni animali tipo il bonomo, le cui femmine anziane proteggono e sostengono quelle giovani, oppure anche i famosi nest helpers, cioè gli uccellini che curano il nido permettendo ai genitori di allontanarsi. E oggi quindi si continua su questa falsariga perché è molto interessante capire che per alcuni animali la famiglia, il branco o il gruppo più in generale è un po' come se fosse un'estensione di se stessi. E del resto sono legati tutti da un grado di parentela più o meno variabile, così se un compagno, più spesso un cucciolo, è in pericolo, spesso si interviene per salvarlo. E a provarci non è per forza la madre, il padre o qualcuno di molto prossimo. Per dire, gli elefanti lo fanno con i propri cuccioli, ma anche con altri individui del branco, caricando addirittura i leoni. E persino gli ungulati ben piazzati e muniti di corna poderose, come gnu e bufali, ogni tanto possono dimostrarsi altruisti provando a colpire con cornate e testate i predatori per salvare i cuccioli nati da poco. Branco a volte vuole anche dire prendersi cura del più debole e di chi è senza aiuto e non potrebbe sopravvivere altrimenti. Ma raccontaci qualche esempio di questa prossimità che hanno gli animali. Guarda, c'è un esempio bellissimo di un lupetto disabile nato nel maggio del 2017 alle porte di Roma. Nell'oasi Lipu di Castel di Guido, è trovato morto purtroppo il 10 aprile del 2018, investito da un'auto. Il piccolo era nato con un'evidente paralisi delle zampe posteriori, però è riuscito a sopravvivere quasi un anno, grazie alla sua ostinazione, ovviamente all'aiuto del branco. Nella sua condizione non poteva certo partecipare alla caccia, ma riusciva a trascinarsi anche per 1 chilometro per seguire i fratelli e il resto del branco e assistere almeno da lontano alle azioni di caccia. In cambio, il branco divideva il cibo con lui, portandoglielo, un comportamento altruistico che si verifica solo con i piccoli di solito e con i piccoli nei primi mesi di vita. Ma anche per questo lupetto è continuato per circa un annetto fino purtroppo alla sfortunata morte. Diciamo che questo però è un caso più unico che raro, perché i lupi che abitano in queste aree protette hanno un territorio relativamente circoscritto e ovviamente molto ricco di prede. Se invece il cibo fosse stato scarso, probabilmente il branco avrebbe dimostrato meno altruismo verso il piccolo lupo disabile. Però cambiando area geografica, passando appunto all'Antartide, è difficile sopravvivere in certe aree anche per il pinguino imperatore Aptenodites fosteri. E spesso a fare la differenza tra la vita e la morte è proprio un gesto altruistico, cioè l'adozione. Pensate che in un ambiente così ostile, in cui la temperatura può scendere a meno 40 gradi, è pieno di predatori come le foche e leopardo, i genitori potrebbero non tornare più al nido. Ad altri invece potrebbe capitare di perdere l'uovo, per esempio, e quindi capita che i pinguini adulti finiscano per adottare un pulcino rimasto orfano. E più spesso di quanto si creda, pensate, i neogenitori adottivi sono una coppia di maschi ed è anche piuttosto diffuso nelle altre specie di pinguini. Ma Antonella, sono curiosa di sapere una cosa. Spesso si dice che gli animali non abbiano un'anima, ma io ti chiedo, non sono convinta di questo, quindi ti chiedo, ci sono dei casi invece in cui gli animali dimostrano affetto e quindi l'anima ce l'hanno? Guarda, assolutamente direi, non abbiamo dubbi. Pensa che il gesto altruistico più famoso e frequente nelle scimmie è il grooming, cioè lo spulciarsi a vicenda, che è un po' un favore reciproco che si fanno, che serve per rinsaldare appunto i rapporti sociali. Però, insomma, è anche un gesto d'affetto e di intelligenza. Pensa che uno studio italiano del 2014 ha confermato che i macachi sono in grado di consolare i compagni con abbracci, carezze, addirittura di rincuorarli. E curiosamente, nello stesso anno, un video girato in India ha testimoniato che sarebbero in grado di fare molto di più per un amico. Io il video l'ho visto, mi ha veramente impressionato perché c'è un macaco che rianima un altro macaco. Infatti, è quanto avvenuto alla stazione ferroviaria di Kanpur, nel nord dell'India, dove un macaco era rimasto folgorato mentre camminava sui fili dell'alta corrente. Tra lo stupore dei pendolari che si sono tutti schierati a riprendere questa strana faccenda, Un compagno macaco gli si è avvicinato e gli ha prestato soccorso. Ha provato a svegliarlo in tutti i modi, mordicchiandolo, dandogli pizzichi, scuotendolo e infine anche immergendolo in acqua, ma con una strategia, perché non voleva certo annegarlo. E dopo 20 minuti circa, lo sfortunato macaco ha iniziato a riprendersi. Una cosa veramente spettacolare. Però adesso ascoltiamoci un po' di musica e andiamo in Brasile con i Dingo Bells. Con Eu Vim Passear e poi concludiamo questa settimana con l'intervista di Susanna a Susanna Marietti, coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone. De sal, um dia salva, no outro dia faz mal. Rieccoci su Liberi Dentro e Radio TV. Siamo di nuovo insieme a Susanna Marietti dell'Associazione Antigone per affrontare un po' di tematiche. Nel corso di questa settimana veramente ne abbiamo affrontate tante, perché abbiamo parlato appunto della situazione del carcere di Torino, del reparto Sestante, abbiamo parlato del REMS, abbiamo parlato dell'ergastolo ostativo e oggi in verità con Susanna, che saluto soprattutto perché neanche ciao ti ho detto, buongiorno e Ciao, bentrovata. buongiorno. E ti volevo chiedere di parlare sulla riforma della giustizia penale attualmente in corso e sulle sanzioni sostitutive e sulle misure alternative. Prima di tutto, che differenza c'è? Sì, dunque la riforma si occupa delle sanzioni sostitutive, mentre le misure alternative già sono nel nostro ordinamento penitenziario. La differenza è che le sanzioni sono proprio delle sanzioni, delle pene che vengono comminate dal giudice di cognizione alla fine del processo. Invece di condannarti a 4 anni di carcere, ti potrà, quando entrerà in vigore questa riforma, condannare direttamente a 4 anni di semilibertà o insomma ci sono tutta una scala di valori, sono anche i lavori socialmente utili, intesi come sanzione sostitutiva, eccetera. Perché non sono delle vere e proprie pene alternative che stanno già nel codice penale e che sono del tutto indipendenti dalla detenzione? Perché appunto non sono indipendenti dalla detenzione concettualmente, anche se poi lo sono di fatto, nel senso che si parametrano sempre a quella, cioè mentre la pena pecuniaria e la reclusione sono due pene diverse che stanno nella parte generale del codice penale, entrambe scritte allo stesso livello, diciamo una è per i reati più gravi, una per quelli meno gravi, per le contravvenzioni, eccetera, ma hanno lo stesso status. Queste sanzioni sostitutive sostituiscono, cioè sostituiscono una pena detentiva, quindi il giudice che ti avrebbe condannato senza sanzioni sostitutive a 2 anni di carcere, ti condanna invece a 2 anni di lavori socialmente utili, per dire, quindi però si parametra su quello. Allora dici, qual è la differenza con le misure alternative? E c'è, perché la misura alternativa la gestisce il magistrato di sorveglianza. A parte che le misure alternative sono diverse, hanno scelto sanzioni diverse, solo la semilibertà si sovrappone. Però al di là di questo, il fatto che la dia il magistrato di sorveglianza, nella pratica ha fatto sì che allungasse i tempi incredibilmente, perché quello che succede è che la persona che viene condannata a 3 anni di carcere oggi può chiedere, ormai da tanto tempo, grazie alla Simeone Saraceni, non ha bisogno, che è del 98, non ha bisogno di entrare in carcere e poi dal carcere chiedere di poter accedere ad una misura alternativa, ma può già dalla libertà chiederlo. In teoria il tribunale di sorveglianza dovrebbe rispondere entro 45 giorni, questo non accade mai e le persone aspettano tantissimo tempo prima di cominciare a eseguire la misura, e in questo tempo non scorre il tempo della pena. Sono quelli che si chiamano i cosiddetti liberi sospesi, che sono un numero enorme di persone, per cui io sono condannato, sono libero perché ancora non è iniziata la mia misura alternativa, non è iniziata la detenzione perché non voglio andare in carcere, ho chiesto dalla libertà la misura alternativa e aspetto un sacco di tempo prima di cominciare. Adesso questo non accadrà più. Dopodiché le sanzioni sostitutive arrivano fino ai 4 anni di pena detentiva, possono essere comminate in sostituzione di pene fino a 4 anni, mentre le misure alternative, se non in casi particolari di tossicodipendenza, alcoldipendenza, arrivavano fino a 3 anni, e questo porta dentro molti più reati. Quindi diciamo è un tentativo di residualizzare l'uso del carcere che speriamo funzioni. Senti, per capire meglio, ma le sanzioni sostitutive quante sono e quali sono, se le puoi definire? Sono la pena pecuniaria, i lavori di pubblica utilità, la semilibertà, la detenzione domiciliare. Per pene detentive entro i 4 anni si può usare la semilibertà e la detenzione o la detenzione domiciliare, fino ai 3 anni anche il lavoro di pubblica utilità, sempre che il condannato non si oppone. Questo è proprio scritto nel criterio di delega, perché altrimenti sarebbe una sorta di lavoro forzato. E fino a 1 anno anche la pena pecuniaria, e tra l'altro si rivedono gli importi per renderli sostenibili, perché oggi le pene pecuniarie sono piuttosto inique, invece si tenta di capire il tipo di reddito che ha la persona. E decide il magistrato la sanzione più consona, dice la delega, più consona per quella persona, tenendo in conto che possa contribuire alla rieducazione del condannato e prevenire la commissione di altri reati anche attraverso opportune prescrizioni, dice la delega. Ora, siccome la pena più desocializzante in assoluto è ovviamente il carcere, quindi diciamo il punto 1 è automaticamente soddisfatto, qualsiasi sanzione sostitutiva contribuirà più del carcere alla rieducazione del condannato, è chiaro che la cosa importante sarà il punto 2, cioè ragioni di sicurezza. Quindi diventeranno molto importanti queste opportune prescrizioni di cui si parla. E diciamo che è una, senz'altro è una riforma che dà su questo un grande potere al magistrato, ecco. Susanna, abbiamo parlato di misure alternative, e anche se la giustizia riparativa non è esattamente una misura alternativa, in realtà è presente nella riforma Cartabia, e di giustizia riparativa se ne è parlato ultimamente, il 12 novembre per essere precisa, a Parma, in una manifestazione che si chiama Vivere e non sopravvivere, al quale hanno partecipato le persone del gruppo dell'incontro. Dal gruppo dell'incontro, tra l'altro, è nato anche un libro scritto da Adolfo Ceretti, il criminologo, che si chiama appunto Il libro dell'incontro, e che ha messo insieme Agnese Moro, Franco Bonisoli, Manlio Milani, Adriana Faranda, Giorgio Bazzega, Fiammetta Borsellino. Proprio in questo evento che è stato promosso tra l'altro dal Comune di Parma insieme alla CGIL Parma in collaborazione con Rinascimento 2.0 e con il patrocinio anche della provincia di Parma, focalizzato su storia, linguaggio, parole e ascolto. Che cos'è la giustizia riparativa, Susanna? Allora, dunque, la giustizia riparativa non è proprio una misura alternativa, nel senso che non va a sostituire una parte della pena, ma nel nostro ordinamento ne abbiamo alcuni piccoli assaggi che si infilano dentro alcune alternative al carcere, non per forza misure alternative. La misura alternativa dell'affidamento in prova prevede un po' di riparazione da parte dell'affidato, così come la messa alla prova, cioè che non è una misura alternativa ma arriva addirittura prima, è la sospensione del processo. Io non ti faccio proprio il processo, ti metto in prova seguito dai servizi sociali per un certo periodo e se questa prova va bene il tuo reato è estinto. Anche qua dentro si annidano dei percorsi di giustizia riparativa. Diciamo che in generale la giustizia riparativa è il tentativo di rispondere al reato non con una punizione ma con una ricomposizione, diciamo, di quella lacerazione che il reato ha creato tra l'autore del reato e la vittima, ma anche tra l'autore del reato e l'intera collettività, perché poi è andato a rompere, diciamo, il patto sociale che c'è tra tutti noi, no? Di comportarci in un certo modo. La giustizia riparativa può essere molto diversa, le varie cose che si intendono, perché si può innestare a diversi livelli. Quello più minimale è durante l'esecuzione della pena, quindi è semplicemente una cosa che si aggiunge, oppure addirittura essere alternativa al sistema penale. Va bene, grazie mille Susanna per essere stata con noi in tutti questi giorni e ti auguriamo di procedere con le tue osservazioni e di trovare sempre meno cose che effettivamente ci fanno star male e ci fanno pensare che c'è bisogno di fare dei cambiamenti. E grazie ancora e la trasmissione continuate a seguirci. Grazie a voi. Rieccovi, bentornati, siamo giunti ai saluti di fine puntata, seguiteci di nuovo con le rubriche oggi che è venerdì, Islam, religione e civiltà e poi a seguire l'intervista che ho fatto a Adriano Moraglio, giornalista e scrittore che oltre a raccontarci il suo impegno in questi anni al carcere di Torino come volontario ci dà anche qualche consiglio sulla scrittura come mezzo per comunicare per chi si approccia per la prima volta e vuole scrivere. Poi sabato domani abbiamo parole chiave a cura dell'arcivescovo Matteo Zuppi di Bologna, dove parleremo della parola chiave di domani che è la temperanza. Poi la rubrica Parliamo di buddismo con Antonella Cortese che intervista Geshe Tempel nel monastero di Pomaia e poi Libri dentro a cura di Diana Bota e poi l'intervista che ho fatto a Pasquale Spina che è commissario di Polizia Penitenziaria che si è anche candidato nella lista del sindaco attuale di Bologna e ha dato il suo impegno, ecco, per migliorare le carceri. E poi proseguiamo con la domenica, partiamo con lo Yoga Ratna, un percorso di libertà a cura di Franco Bonisoli e Laura Russo, a seguire il FOMAL, chef al fornelletto, ci prepara i rigatoni alla carbonara. Redazione Liberi Dentro, @gmail.com per scriverci e come sempre un saluto da me che sono Caterina, da Antonella Cortese, Nea Flacco e Diana Bota. Grazie e a lunedì. It's beginning to look a lot like Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Every star.